che diciamo deve fare lì, senza caso in un da 2 anni, ma di quello in curso. C'è te l'ho mi gira le palle, vado con la ricevuta, la polizia postale, gli racconto tutta la storia, intanto c'è il numero della sua posta pay, perché io gli ho fatto una ricarica a lui, quindi risulta. E la polizia postale ci mette poco ma tramite il numero a sapere chi è e chi non è. No, non è il caso. Vedrai che quello poi alla fine ti si scuserà per colpa degli altri, perché poveraccio magari non ha colpa. Non prendiamo subito che nasce di guerra, guardiamo qualche volta il lato buono delle persone. Io so come San Paolo, guardo sempre il lato buono delle persone. Poi se il caso io mi scuoto come se ci sanga me ne vado, però prima cerco di compiacere all'altro. Non mi rimuovo. Credo che questa volta ci sia un inteso, io un disguido totale. Infatti quello che ho scritto, mi auguro che sia solo un disguido, perché il pagamento è stato effettuato il giorno spero di ricevere più presto la merce, salutoni eccetera eccetera. Io la prima lettera che gli ho mandato lui, di nuovo ha scritto che lui i soldi non li ha ricevuto, che la merce non la manda e che continua a controversi. Ho scritto di nuovo, allora gli ho scritto che praticamente io avevo la ricevuta, che ero pronto a spedirmene una copia, e così poteva visualizzarla eccetera eccetera. Se non ricevevo la merce dopo aver pagato, dovevo per forza rivolgermi alle autorità competenti, così l'ho scritto. Vabbè, io sono sicuro che lo risolvi, perché se tu hai pagato basta presentare la fotocopia del bollettino, deve far vedere, gli mando la fotocopia del bollettino, lui sta il tracciato, c'è un codice e basta, lo trova subito, no? Ma il bello è che su eBay non si può pagare con PostePay, invece lui mi ha proposto proprio PostePay, mi ha scritto vai al primo ufficio postale, paghi con PostePay e ti arriva in 3 giorni. Ok, io ho fatto così, come ho fatto con altre cose già e mi hanno sempre arrivato, tranne quello che mi hanno rubato 200 euro, vabbè. Ma è male, provetto, non è una vita molto seria. E beh, uno, no, è un po' così, è stato un letamaglio in internet, perché internet è un letamaglio, però ci sono così gli ultimi di gare, ma serve, sì, però caso ci vuole un elmo e un culo d'acciaio per affrontare queste cose frutti che fanno. Ma buia, adesso ti lascio che me ne vado da Drummit. Ti auguro una buona notte e arrivederci domani. Ciao ciao Gianni, buonanotte a tutti anche agli ascoltatori. Ciao Gianni, ciao carissimo, stanno bene con tutto, ti sentissimo. Ciao ciao ciao,